Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. La settimana scorsa ospite di Obbligo di Frequenza è il ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini, forse qualcuno di voi se lo ricorderà. Ebbene, ve l'avevamo promesso che avremmo sentito poi anche chi con le sue idee naturalmente non è d'accordo. Questa settimana infatti ospite Maria Pia Garavaglia, ministro ombra del Partito Democratico, che è impegnato in questi giorni in una 3 giorni di protesta proprio contro la politica della scuola di questo governo. Poiché non siamo di fronte ad una riforma, non abbiamo potuto confrontarci né approfondire delle eventuali diverse visioni sul destino della scuola italiana. Perciò non ci piace dover registrare che si interviene sulla scuola in tutti i suoi ordini e gradi proprio senza dire dove si vuole arrivare se non nel risparmio finanziario. Perciò, a prescindere dai dati OCSE e PISA, che pure vanno tenuti in considerazione perché siamo in Europa, non si può incominciare a toccare la elementare, cioè la scuola primaria, che è la scuola sulla quale anche i dati internazionali dicono che è una scuola di prim'ordine. Noi vogliamo trovare la possibilità di finanziare l'edilizia scolastica. Io a questo progetto sto lavorando anche con il dottor Bertolaso, che ringrazio perché mi sta aiutando a individuare le scuole a rischio, e la volontà è quella di intervenire, di focalizzare l'attenzione anche sul tema dell'edilizia scolastica, in modo che tutti insieme, enti locali e governo, insieme si faccia uno sforzo per liberare risorse sull'edilizia scolastica. È chiaro che servono delle cifre gigantesche, non si può fare tutto e subito, però se non iniziamo non concluderemo mai. Quindi cominciamo ad occuparci di edilizia scolastica, mettiamola nei primi posti delle cose, nelle priorità. Così la Gelmini nella nostra intervista della scorsa settimana, e siamo davvero tutti d'accordo sul fatto che l'edilizia scolastica debba essere una priorità. Non dobbiamo infatti mai dimenticare cosa è successo 6 anni fa a San Giuliano di Puglia, parlo infatti della morte dei 27 bambini e della loro maestra sotto le macerie della loro scuola, venuta giù per una scossa di terremoto. È notizia invece di questi giorni che varie scuole siano state costruite nella zona di Crotone addirittura con rifiuti tossici. Ebbene, anche quest'anno è impietosa la fotografia che Cittadinanza Attiva ha fatto dello stato di salute delle nostre scuole. 132 gli istituti monitorati in 12 regioni, monitorati su sicurezza degli edifici, qualità, prevenzione, vigilanza. Ebbene, nessuna ottiene il punteggio massimo. 12 hanno buono, 33 discreto, 56 appena sufficiente, 25 insufficiente e 7 pessimo. Tanto per riprendere i giudizi che si usano anche a scuola, anzi si usavano, perché ora con la Gelmini si useranno solo i voti. Impossibile naturalmente citare appunto i giudizi di tutte le scuole, se volete vederli però potete farlo cliccando sul nostro sito radio24.it, magari scoprite che in queste 132 scuole studiate da Cittadinanza Attiva c'è anche la vostra, quella di vostro figlio. Vi dico solo la migliore, anzi le migliori: la scuola dell'infanzia di Rorai Piccolo a Porcia, in provincia di Pordenone, e la primaria di Via Cilento a Battipaglia, in provincia di Salerno. La peggiore invece è la scuola dell'infanzia Leopardi di Lamezia Terme. Insomma, la nostra scuola non è messa tanto bene. Adriana Bizzarri di Cittadinanza Attiva. Anzi, direi al contrario, non solo non abbiamo registrato miglioramenti significativi, perché sono 7 anni che effettuiamo monitoraggi a campione, ma anzi un netto peggioramento, e la cosa più grave è che lo si ha questo peggioramento soprattutto nelle scuole in zone a elevato rischio sismico. Note dolenti sono aule, palestre, bagni, e poi c'è tutto il discorso della certificazione. Ecco, quali sono le maggiori adempienze, i maggiori pericoli che arrivano da queste 3 prime categorie: aule, palestre e bagni? Ma dunque, denotano innanzitutto il fatto che gli ambienti, i problemi della sicurezza siano legati agli ambienti più frequentati obiettivamente dagli alunni, denota il fatto che ci sia una mancanza ormai cronica di manutenzione ordinaria, assolutamente, ma anche di igiene e pulizia e anche di inadeguatezza per quello che riguarda gli arredi, le attrezzature proprio di base. Pensiamo appunto che le aule presentano sia crolli di intonaco che segni di fatiscenza, di umidità e così via, ormai quasi in un caso su quattro, e con pavimenti sconnessi, finestre rotte, ma anche che abbiamo pochi banchi e comunque danneggiati, e poi abbiamo non so, armadi e librerie, se pensiamo che buona parte delle scuole monitorate sono di scuole materne o primarie, non abbiamo armadi e librerie ancorati alle pareti, e questo anche sta, diciamo, fa il paio con il numero sempre crescente di incidenti che anche quest'anno non solo noi ma soprattutto l'INAIL registra, per non parlare appunto di 12.900 incidenti al personale e 90.500 esatto. Circa gli studenti, insomma, sono numeri considerevoli. Sono numeri consistenti e poi sono solo quelli denunciati. Pensiamo anche che, con molte legate ai comportamenti, quindi gli incidenti lo stanno a indicare, pensiamo che ancora nel 51% delle scuole abbiamo trovato il cancello d'ingresso aperto durante le lezioni, e questo appunto è inspiegabile, nel senso che facilmente un estraneo potrebbe tranquillamente entrare a scuola, così come un bambino, soprattutto un bambino piccolo, uscirne. Assolutamente. Quindi, sì. Altra nota dolente è quella della certificazione. Dico nota dolente perché ormai tutti gli anni, no, facciamo queste chiacchierate, raccontiamo ai nostri ascoltatori, appunto. E purtroppo nulla cambia e nulla migliora, anzi. Nulla migliora, e poi ripeto, quello che a noi dispiace e preoccupa, e non sappiamo veramente più ormai come farlo capire, è che un terzo delle scuole italiane si trova in zone a rischio sismico. Sapere o no che quella scuola è in grado di sostenere una scossa, quindi l'agibilità statica sta a indicare questo, è una fonte di preoccupazione immensa, credo, per tutti. Eppure, San Giuliano insegna purtroppo, esatto, in questo senso. Esattamente, tra pochi giorni ricorrerà appunto l'anniversario, e quindi non si riesce a capire perché non si mettano a punto non solo interventi di tipo economico, ma anche si cambi proprio una politica anche a livello territoriale, no? Di maggior di voler incidere davvero alle radici di questo problema che ormai è diventato un'emergenza nazionale. Della serie Chi troppo e chi niente. 9 insegnanti per classe in una prima elementare di Albate nel Comasco, tanto che sono gli stessi genitori a lamentarsi. Alla faccia delle intenzioni della Gelmini di reintrodurre il maestro unico. Eppure è tutto regolare, lo ha stabilito anche un'ispezione. Come ci spiega la dirigente Deborah Izzo? Tanti maestri, il numero dei maestri ci viene assegnato dall'ufficio scolastico provinciale in base che analizza una serie di parametri che vengono chiesti alle scuole, tipo per esempio il numero di ore di mensa, oppure il numero dei laboratori, il numero degli alunni, il numero delle ore di lezione settimanali, eccetera, il numero degli alunni stranieri. Quindi, analizzando tutti una serie di parametri, elaborano l'organico da assegnare scuola per scuola. A me ne sono stati assegnati 29 e naturalmente io ho l'obbligo di utilizzarli sulle classi. 29 insegnanti per quante classi? Per 16 classi. Di scuola elementare? Di scuola primaria, sì. Quindi a questo punto lei si è trovata a dover dividere per le classi un numero piuttosto considerevole, e quindi come ha operato? Io ho dovuto impegnare sulle classi un numero considerevole di insegnanti, e innanzitutto ho considerato in primis la continuità didattica, perché non è ammissibile stravolgere tutta l'organizzazione già preesistente sulle classi. E questo poi vuol dire che se un insegnante era in una classe ha preferito garantirla anche italiano. Certo, se un insegnante insegnava italiano in una quarta, io certo non ho tolto italiano sulla quarta a quelli insegnante, e ho assegnato il resto delle discipline, soprattutto quelle specialistiche, ad insegnanti che erano specializzati, tipo ho assegnato tecnologia a un'insegnante laureata in informatica, ho assegnato musica a insegnanti maestre proprio diplomate al conservatorio, e quindi ovviamente poi c'è l'inglese, sono insegnamenti specialistici inglese, c'è la religione, quindi è chiaro che poi il numero degli insegnanti aumenta sulla classe. Dicevamo chi troppo, chi niente. A Marettimo, un'isola delle Egadi, c'è una scuola con 29 alunni fra materna, primaria e secondaria di primo grado. Per asilo e medie, nessun problema. Per le due pluriclassi delle elementari, invece, solo mercoledì hanno avuto i loro due insegnanti e solo dopo la protesta piuttosto plateale dei genitori che hanno fatto ospitare i loro figli da un'altra scuola in un'altra isola. Ogni anno, del resto, è così. Nessun insegnante accetta l'incarico. Ci spiega perché Rosanna Lopiano, responsabile della scuola. Perché venire qua è un disagio enorme. Anche noi, nel momento in cui quest'anno ci arriverà qualcosa di meglio, anche noi accetteremo e andremo via. Che sia ben chiaro. Però così allora non finisce lo più. Lo so, forse... però le spiego. Nel momento in cui forse arriverà le persone... un incarico migliore su terraferma, o se il Ministero non darà o un incentivo economico o un doppio punteggio come era fino a 2 anni fa, che si faceva praticamente a gara per venire ad insegnare nelle isole, la scuola andrà così o andrà sempre peggio. Perché lei di dov'è, signora? Io sono siamo tutti di fuori, siamo tutti della provincia di Trapani, abbiamo tutti famiglia, chi di Trapani, Alcamo, Marsala, Mazara. A che ora si alza al mattino? No, abbiamo l'obbligo di stare qui, perché non ci sono aliscafi che arrivano alle 8:30, il primo aliscafo che arriva qui è alle 9:30, 10:15. Quindi ha dovuto prendere casa? Abbiamo preso casa tutti, ci paghiamo gli abbonamenti degli aliscafi, dobbiamo mangiare, quindi almeno 50 euro a settimana per mangiare qua se ne vanno. Lei ci levi tutti questi costi, a parità ce ne andiamo. Insomma, dovreste avere un incentivo economico, ecco, perché così... è proprio questo. Fino a 2 anni fa, con la Moratti, noi abbiamo avuto il doppio punteggio. Io sono stata 3 anni a Pantelleria e ho avuto il doppio punteggio. Abbiamo un contratto mensile, quindi nel momento in cui a me mi arriva un contratto migliore di questo, io lascio qui e me ne vado. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, alle 12:45.